Dissi allora a me stesso: su via, ti voglio far fare la prova dell'allegria. Prova i piaceri. Ma mi accorsi che anche questa era vanità. Al riso, infatti, dissi: stolto, e all'allegria, a che serve? Decisi ancora di darmi al vino in questa mia ricerca della sapienza e di far mia tutta la follia finché non avessi capito quale bene ci sia per gli uomini, un bene che essi possano realizzare nei giorni contati della loro vita. Feci grandi lavori, mi costruii case e mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi, piantandovi alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii cisterne piene d'acqua per poter irrigare tutti quegli alberi. Mi comprai schiavi e schiave. Ebbi servi nati in casa e possedetti più armenti e greggi di quanti furono prima di me in Gerusalemme. Ammassai anche argento, oro e tesori di re e di province. Mi procurai cantori e cantatrici e delizia dell'uomo, principesse in gran numero. Così divenni più grande e più potente di quanti furono in Gerusalemme prima di me, e avevo sempre ben salda la mia sapienza. Tutto quanto i miei occhi chiedevano non l'ho negato loro, non ho rifiutato al mio cuore nessun piacere. Il fatto che il mio cuore fosse contento di ogni mia fatica, questo era il solo guadagno che mi veniva d'ogni mia fatica. Mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo durato a compierle, e mi convinsi che tutto è vanità e agire senza senso, e che non c'è vantaggio sotto il sole. Mi volsi a indagare sulla sapienza e sulla scienza, sulla follia e sulla stoltezza, pensando: che cosa farà l'uomo che mi succederà? Farà ciò che è già stato fatto. Mi resi conto che la sapienza è superiore alla stoltezza quanto la luce alle tenebre. Il sapiente ha gli occhi in testa e lo stolto cammina nelle tenebre. Ma subito notai che la stessa sorte tocca ad entrambi. Pensai fra me: toccherà anche a me la stessa sorte dello stolto, e a che pro allora sono diventato tanto sapiente? Così conclusi fra me che anche questo è un'assurdità. Infatti la memoria del sapiente scompare come quella dello stolto, per sempre. Ben presto tutto è dimenticato. E come muore anche il sapiente insieme allo stolto? Presi in odio la vita, perché per me era male tutto ciò che si fa sotto il sole. Tutto è vanità e agire senza senso. Ho preso a odiare tutta la fatica che duro sotto il sole, perché devo lasciar tutto all'uomo che mi succederà. E chissà se sarà sapiente o stolto, ma è certo che sarà suo tutto ciò che ho fatto con la mia fatica e con la mia sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità. Allora la disperazione ha invaso il mio cuore, pensando a tutta la fatica che ho durato sotto il sole, perché c'è un uomo che si è affaticato con sapienza, con scienza e con impegno, e deve lasciare ciò che è suo a un altro che non ci ha messo nessuna fatica. Anche questo è vanità e male grande. Infatti, che cosa rimane all'uomo in tutta la sua fatica e nell'affanno del suo cuore nel quale si è affaticato sotto il sole? Per tutti i giorni della sua vita il suo lavoro è dolore e tristezza. Il suo cuore non riposa nemmeno di notte. Anche questo è vanità. Non c'è cosa buona per l'uomo se non mangiare e bere e godere il successo delle proprie fatiche. E ho anche capito che questo viene dalla mano di Dio. Chi, infatti, può mangiare e godere senza di Lui? All'uomo che gli è gradito concede sapienza, scienza e gioia, e al peccatore dà l'affanno di raccogliere e ammucchiare per poi lasciare tutto a chi è gradito a Dio. Anche questo è vanità e occupazione senza senso.